condividiamo il fatto che bisognerebbe veramente che tutti si mettessimo in animo di aiutare questo nuovo metodo. Purtroppo io mi sono accorto che qualcuno non ha letto il testo. Ora, l'utilità di questo nostro incontro dipende dalla misura in cui tutti hanno più o meno assorbito qualche cosa delle tematiche del testo, del dossier. Quindi l'utilità e l'attività principale sono quelle di attivamente discutere e non di pretendere di nuovo orientamenti chiari. Probabilmente qualche cosa verrà fuori, ma l'importanza di questo dibattito è quello di liberarsi da tanti schematismi. Non è solo l'etnocentrismo che noi dobbiamo combattere dentro ogni direi formulazione di fede e chiesa, ma l'etnocentrismo di ciascuno di noi, che direi riducendo l'angolo di problemi e delle soluzioni si rende incapace del dialogo oggi, della comunicazione. Quindi è importante questi 22 interventi, per me tutti utilissimi, importantissimi, hanno direi fatto breccia su una impostazione angusta che ci direi dimensionava moltissimo. Ecco. Un tentativo di bilancio. Ieri una parte del nostro dibattito è stato dedicato al metodo, ossia abbiamo osservato come è necessario, ma anche i suoi limiti, partire da dei concetti, dalle categorie che hanno delle accezioni ambigue, perlomeno convenzionali, che sono utili queste categorie perché sono disponibili a raccogliere un'interpretazione di molti fatti, ma abbiamo visto come anche tutto rimane sempre poi fluttuante, cioè c'è necessità di tener conto dello scarto che ogni modello interpretativo porta nella interpretazione. E vorrei insistere su questa categoria dell'interpretazione. Bisogna che veramente ci aiutiamo un po' tutti a uscire da quella mentalità per cui pensare vuol dire impossessarsi dell'oggettività, pensare è interpretare, e quindi praticamente opera su noi per darci una capacità di leggere. In questo senso io recupero a questo primo livello le suggestioni di precisazione che sono state fornite da Crecci, da Ansley, dove bisogna tener conto che il meccanismo, pur partendo da una categoria come l'ha ridimensionata Don Fabris, deve anche tener conto di ulteriori precisazioni. Poi io recupero in questa istanza anche il tema della memoria che è stato ribadito ieri sera, che ho preso anche nella predica stamattina, cioè si tratta sempre per il meccanismo anche di rileggere un po' il passato, di interpretare, non è che sia vissuta dalla coscienza di tutto un popolo il meccanismo, spesso è direi, proiettata in questo popolo questa meccanicità da qualcuno che ha coscienza, profeti, personaggi, e non sempre nel tempo e nella stessa maniera il meccanismo direi si realizza. Secondo punto di convergenza, abbiamo forse trascurato qualcuna delle categorie offerte da Don Fabris. Abbiamo per esempio abbandonato del tutto, forse dovremmo riprendere la categoria della mediazione. Abbiamo forse insistito sulla prima, ma più in senso metafisico, cioè siamo andati verso una concezione, diremmo, del rapporto tempo, del rapporto futuro con la trascendenza e addirittura con quel famoso senso del limite che porta a mettere in discussione di nuovo il monoteismo, il politeismo nella loro tensione. Un'altra osservazione, abbiamo concentrato poi molto il dibattito sulla sofferenza, perché sembrava che Don Fabris avesse trascurato questo elemento, però abbiamo visto come bisogna distinguere tra la sostanza profonda di ciò che è il meccanismo, o potrebbe essere, dalle situazioni storiche che lo scatenano, lo fanno nascere, da quelle esperienze dalle quali ci si muove. Allora, le utili precisazioni di Don Fabris sull'esperienza del limite, soprattutto nei momenti violenti, attraverso i quali si è portati proprio a riscoprire il trascendente e anche la universalità nell'ambito cristiano. E però anche altri hanno sottolineato il debito storico che è stato pagato in questo tentativo di interpretare la storia, il nascere, lo scatenarsi di questo senso messianico. E ci si è domandati quando scatta e perché scatta. E addirittura Don Menino accennava il fatto che alle volte l'eccesso di male e di sofferenza potrebbe anche portare all'estremo opposto, cioè una coscienza di valore messianico e anche l'abdicazione l'ateismo, eccetera. Però dopo l'ultimo problema che è rimasto in sospeso, dato che da Don Menin, e non voglio con questo negare tutti gli altri, i 22 li ho meditati un po', sono tutti interventi che dovremmo ritenere. Il tema delle missioni. Tutti sono d'accordo che devono cambiare, qualche pista sembrava dire che debba addirittura mettere in crisi la sopravvivenza stessa della missione. Comunque il tema missione è veramente uno sbocco sul quale si potrà verificare più o meno il senso del messianismo. Comunque concludo questa puntualizzazione, molte delle cose dette ieri sera hanno sono andate al di là del passaggio livello e sono arrivate già nel dibattito di oggi, di stamattina, di pomeriggio, quindi le riprenderemo, anche se qualche cosa è stato quasi offuscato o non totalmente detto. Invece vorrei da subito adesso pregare coloro che hanno fatto degli interventi piuttosto seri, casomai penso per esempio a Don Menin, sì, soprattutto Soprandi, e anche Caeci, gli altri, eccetera, oltre che Boff, tengano conto che eventualmente li possono anche spendere come piccoli contributi o contributi più o meno di una certa estensione da allegare agli atti quando saranno pubblicati. Allora, adesso questa mattina abbiamo per la seconda nostra introduzione la presentazione e l'avvio del dibattito da parte del professor Ricci, che ringraziamo molto. Non so se sia il caso di leggere la pagina 17 del testo, proviamo. La radicazione antropologica del messianismo viene posta in primo piano oggi anche per la riflessione teologica. Si tratta del rapporto tra messianismo e antropologia. Alcune questioni sono generali di fondo, per esempio il rapporto tra creazione e novità introdotta dalla rivelazione storica, cristiana, nello specchio della Trinità, ovviamente il nostro convegno teologico di San Giovanni in Fiore, e nelle conseguenti responsabilità per la Chiesa, ma vedremo nella seconda parte della mattinata. Ma qui si mettono in rilievo soprattutto i problemi più specifici, schematizzando proponiamo due fronti, quello del dare e quello del ricevere, poi non sono tutto coerenti. Che cosa conferisce all'identità di un popolo l'appello a Dio e poi a Cristo, eccetera, e soprattutto in termini di futuro, di speranza messianica. Leggendo l'articolo che segnalavo ieri sul messianismo polacco, di quel polacco che ha scritto sull'Acceo, viene fuori il discorso addirittura di quella componente che giudica il messianismo dei polacchi, della corrente che è messianica, di mascheratura, di romanticismo, di gonfiatura, di mitizzazione. Non basta il principio speranza alla Bloch senza riferimenti religiosi a determinare capacità di progetto storico, di senso di responsabilità, di missione, di intenzione a cambiare il mondo e non solo a interpretarlo, ma chiaramente. Non basta il fattore superio a mettere in moto il processo di sublimazione del provvisorio e del limitato, e quindi di ampliamento dell'amore che dall'egoismo di gruppo, la tesi di Bühlmann, passa all'egoismo di tribù e sale verso un noi più grande che fa, direi, uscire dall'egoismo. Il Dio con noi, che sta nel fondo dei nomi teoforici, delle consacrazioni di valori come terra, lingua, parentela, continuità, abbiamo sentito ieri tradizione, cultura, patria, nelle varie teocrazie, non conduce a un'affermazione più chiara di trascendenza dell'uomo, che è l'elemento antropologico di base e della sua funzione storica, e proprio attraverso la divinizzazione dei compiti, divinizzando i compiti dell'uomo, si consacra una sua trascendenza, non trascendentale, per cui si diventa esecutore di piani divini. Ecco, pensate l'articolo di lei sul Lincoln, Abramo Lincoln, questo senso di vocazione di eseguire su un piano nostro, un piano di Dio, o addirittura comprogettatori, non soltanto coesecutori, ma comprogettatori di storie con Dio, ecco una prima serie di domande. Seconda, il ricevere. Che cosa ne deriva per converso alla fede religiosa, in fede in Dio, da tale investimento in essa dell'uomo, o di essa nell'uomo, dell'umano? Dio non diventa allora funzionale? I vari bisogni di autodifesa e di autoproposizione non fanno trapassare nella fede in Dio stesso i processi di fanatismo, ed è forma della pace, di cui abbiamo parlato nel corso, di opposizione al diverso e allo straniero, di lotta e di guerra, cioè questo umano direi così, anche negativo, viene divinizzato e quindi sottratto alla sindaca, alla sindaca. Soprattutto Dio non diventa una copertura ideologica che si presta a far trasferire all'uomo gli attributi divini, è un problema grosso per me, della insindacabilità, della superiorità e del dominio. Perciò in questo campo, quanto deve considerarsi legittimo il processo di secolarizzazione, l'ideale della laicità anche dei popoli e non solo degli stati, quindi raffreddare un po' il fanatismo messianico in giro, demitizzando, razionalizzando, combattendo indebite fasi di sacralizzazione, ma non basta fermarsi ai giudizi moralistici, bisogna anche sviluppare il discorso su come valorizzare in concreto il messianismo dei popoli. Si tratta allora di riflettere sul bisogno di celebrare eventi, e qui c'è tutta l'antropologia culturale, fondatori originari, c'è un bisogno anche delle feste, pensiamo alla sagra di oggi, meglio ogni giovedì, che novità che rappresenta il nostro Roger, ha dovuto fare un viaggio di 3 km in più per condurre Gesù, per evitare l'ingolfo. Anche mitizzando casomai memorie concrete in successione diacronica, oltre che costruire profezie e progetto, quindi si guarda indietro e mitizza. Qui si inserisce il tema delle feste, del calendario storico e non soltanto astronomico. Si tratta di riflettere sul bisogno di celebrare eroi, antenati, modelli prototipici, salvatori, anche per promuovere novità di esperienza nell'oggi e per il domani, per uscire dal banale, dal normale, dal ripetitivo. Il discorso della liturgia a questo punto si amplifica per assumere non solo il popolo in linea storico grande, ma anche il popolare, minuto. Ecco. Si tratta poi di riflettere su come fare spazio all'emergenza del nuovo dentro ogni popolo, anche dentro il già nuovo popolo. Ecco il problema, questo lo rimetteremo casomai alla seconda relazione sulla Chiesa. Il dramma è come dare spazio all'emergenza del nuovo. Quali i nuovi popoli, le nuove culture, le nuove lingue, dove si nascondono? In ciò che oggi è oppresso, delle vie di solito della sofferenza, perdente, la scuola di Franco Rodi, ignoto, pericoloso, minoranza, contestative, il tema del messianismo impegna a prendere sul serio il problema delle situazioni di sofferenza, di pericolosità, non in quanto esse siano messianismo, ma come diceva ieri, in quanto scatenano il senso, diremmo, del richiamo a Dio, come nei salmi, la sofferenza si fa invocare il protettore delle vedove e degli orfani, gli ultimi che potranno diventare i primi. I luoghi, i soggetti della speranza. La scuola di Franco Forte, già abbiamo visto che però dalla conferenza, dalla relazione di Stefani, addirittura Maimonide già presentava questa idea. La scuola ha messo in risalto il negativo nell'uomo e nella storia, prolungando il discorso del servo sofferente. Si tratta di ridiscutere tali prospettive. Non si potrà evitare infine il problema della possibilità di alternanza di protagonismo di popoli nella storia della Chiesa. Si pensa al Papa polacco, e la probabilità di papi di aree più lontane ancora. Ne va trascurato il problema del ruolo anticipatore di quelle minoranze che in un oggi determinato appaiono sono di fatto delle feste. È il tema della festa. Pensate, in un articolo che ho visto del giornale del Journal of Ecumenical Studies, un protestante ha fatto un bilancio di questo papa dicendo che questo papa, Paolo VI, sembra voler gestire la Chiesa, sembra voler gestire la Chiesa cattolica universale come una testa. Questo giudizio. Delle proposte radicali sia di fuga che di aggressione per rapporto al presente, addirittura di tono apocalittico. È un ammasso di problemi per far sentire come non dobbiamo diventare semplicissimi. Quindi probabilmente in questa discussione aumenteranno i problemi. Adesso non è che il nostro padre Ricci si è tenuto a seguire queste domande, eccetera, ma lui faccia l'avvio di questo tentativo di problematizzazione di risposta. Dopo abbiamo un'ora e mezza di Ma io ieri avevo iniziato con un intervento, sì, indicazione di metodo, poi sono stato zittito e sono stato zitto, ma anche perché sapevo che avrei parlato stamattina, se no non sarei stato zitto. Allora, no, stamattina riprendo anche perché di fatto avevo già pensato di fare un intervento di questo tipo, cioè un tentativo di mettere un minimo di ordine nel linguaggio, perché io continuo a pensare che i modelli, se noi non li facciamo coscientemente giocare padroneggiandoli, ci giocano, si giocano dei brutti scherzi, cioè così non ci permettono una chiara vigenza nell'affrontare i problemi. Allora, schematizzando al massimo, ho cercato di individuare alcune accezioni che appunto giocano anche in questo dossier, o più in generale nell'ambito nell'ambito tematico che ci interessa, alcune accezioni di popolo da una parte e alcune accezioni di messianismo, messianico, eccetera, dall'altra. Sul popolo è relativamente facile individuarne, ecco, almeno alcune che hanno una certa determinatezza. E il modo per individuare delle accezioni, credo il modo migliore sia quello che suggeriscono i linguisti, cioè è la differenza che fa il senso, vale a dire trovare qual è l'antitesi di una certa accezione. Ecco, allora si individua qual è il senso di un'accezione. Allora, popolo, ecco, c'è una prima accezione che, se non sbaglio, è quella prevalente nel dossier, dove popolo è una collettività presa nel suo complesso, in quanto individualizzata, e quindi la cui antitesi sono gli altri popoli. Io però sicuramente no, spiccio proprio perché non abbiamo pochissimo tempo. Ma c'è una seconda sezione di popolo che è fortemente presente e nel dossier e in tutto l'ambito problematico che ci interessa, ed è il popolo, come diciamo così, dentro una collettività e le sue stratificazioni, il popolo come lo strato basso, i poveri, economicamente, culturalmente, eccetera, no? Quindi popolo che non più un popolo versus, cioè, contro, in relazione agli altri, ma dentro il popolo la parte bassa, diciamo classe nel senso più specifico, no? Andiamo parte, contro la parte alta. Una terza questione vicina a questa seconda, ma che non la ricopre esattamente, è quella che usa il filone minoritario della teologia della liberazione, per esempio quello di Scannone, Fera, eccetera, dove popolo, in chiave lo è, ecco, questa che si rifà alla Chiesa più che non alla collettività generale, dove allora popolo è il populus fidelium, sì. Cioè il popolo è la base, in quanto si contrappone logicamente, no, alla gerarchia, e quindi sono appunto i fedeli. Allora non c'è più una connotazione di classi basse alte, perché del popolo fanno parte anche le classi alte, o del popolo fanno parte gli stessi gerarchi, tra virgolette, in quanto essi stessi sono popolo, popologia. Una quarta accezione che è meno, forse è meno tematizzata, ma che a mio avviso attraversa un po' le prime tre, ed è il caso di guardarla in faccia, perché vedremo come poi ha rilevanza nel proseguo del discorso, è quella di popolo come la radicazione naturale e l'unità naturale di una collettività, o se vogliamo quel tipo di collettività che si configura come unità naturale. Da quella naturalità prima, che è la parentela, il clan, la tribù, a quella invece naturalità già, diciamo, più elaborata e mediata, che è la volonté generale di Rousseau, o anche il Gattungswesen, il genere umano di Marx, che a mio avviso è ancora, no, del primo, ma del Marx giovane, no? E cioè è la collettività, il corpo sociale in quanto radicato nella natura, ecco, in quanto ha una sua unità anteriore a ogni convenzione. Sul modello, allora, possiamo dire così, delle comunità preindustriali. Ma comunque, al di là di questa indicazione storica, direi fenomenologicamente, ecco, questa unità pre-tessica, unità fusei, in quanto si contrappone invece alla unità, cioè alla unità che viene posta unità, l'unità puramente positiva, da una serie di convenzioni, dove si ha allora un altro tipo di corpo sociale, che propriamente non è più un corpo, no, ma è l'unione pattuita di un contratto, non più un vero contratto sociale, no, di una serie di contratti, appunto, di regole del gioco, con cui una certa società sta assieme. Ma dove il suo stare assieme non è più l'espressione di una vocazione o comunque unità originaria, ma è invece l'insieme delle convenzioni che la cementano per pattuizione reciproca. Ecco, allora, popolo sottolinea a volte che si sente che dicendo popolo si intende il primo tipo di società, in contrapposizione al secondo, che semmai invece fa pensare più allo Stato. Ecco, questo per quanto riguarda il popolo. Mi pare di poter ravvisare, dico, almeno queste quattro questioni, probabilmente ce ne sono poi altre, forse alcune anche più importanti, ma almeno queste quattro sono presenti. Per quanto riguarda invece il messianico, o messianismo, eccetera, a mio avviso il problema si complica. Cioè qui, come accennavo ieri, è inutile, è sterile cercare delle accezioni che, per quanto siano fluttuanti, però abbiano in fondo una loro determinatezza. Perché? Perché, ecco, mentre popolo e popolare, eccetera, è un termine che fa parte del linguaggio di base, che la gente parla, popolo è un termine popolare. Se voi chiedete a un bambino dell'elementare che cos'è il popolo, probabilmente gli dice è la gente, è tanta gente, insomma, ha un'idea per quanto confusa. Invece messianismo, messianico, è un termine colto, cioè riflesso. Non fa parte del linguaggio di base, ma del metalinguaggio, di un o di più metalinguaggi. Allora bisognerebbe individuare qual è il campo scientifico metalinguistico in cui il termine messianico è nato, e credo siano gli studi biblici, e poi vedere come, passando agli altri campi, subisce degli spostamenti, perché passando al campo degli studi etnologici, oppure al campo degli studi della storia del pensiero occidentale, quando si parla di messianismi secolarizzati. Oppure oggi, passando a quel campo che sta diventando un po' più del linguaggio comune, sia pure, insomma, comune fino a un certo punto, quando oramai viene a dire quello che viene a dire, per esempio, sulla bocca di quel giornalista della Repubblica che l'altro ieri osservava con giusta ironia, a mio avviso, no? Che Bagebosso ha fatto un discorso, ha una concezione messianica di un partito che pensa di essere il non plus ultra della laicità. Ecco. Allora, cosa vuol dire qui messianico? Evidentemente, è semplicemente la contrapposizione di laico, e i due termini si sostengono e in fondo si strizzano l'occhio a vicenda, anche come dire, siamo l'uno contro l'altro e insieme si ecco, che cosa vuol dire? Allora io direi che bisognerebbe qui fare una scelta, se si volesse, no? Fare una scelta metodologica impostata un po' sul principio scolastico del quo maior extensio e o minor compreso. E cioè che o si sceglie il minimo denominatore comune del termine messianismo, messianico, eccetera, il minimo denominatore comune di tutti i suoi usi, e allora si ha davvero un'accezione che poi è applicabile a tutti i campi, però è così povera che credo non contenga molto di più che una tensione al futuro. Si prende tutti i... Oppure, perché il più generale è anche il più generico. Oppure si sceglie invece un campo specifico e si dice, ecco, qui dentro messianismo vuol dire questo. Ecco, io non saprei, davvero non so scegliere tra queste due cose. E la mia impressione, mi sono occupato di messianismo a diverse ondate, con diversi tempi, e un po' di quello biblico, un po' di quelli del terzo mondo, eccetera, E la mia impressione è che sotto il termine messianismo, messianico, messianicità, eccetera, già messia è più ristretto, messia è più ristretto, ma anche qui direi forse è partito dal, nella Bibbia si parte da messia e si arriva a messianismo, dal punto di vista proprio filologico, oggi è il contrario, no? Allora, questa famiglia di termini, a mio avviso, invece ecco di chiedersi quale accezione copre, o quale insieme di accezioni copre, forse è meglio dire così, è come una cassetta di attrezzi, o meglio ancora è come quelle scatole dei bambini, con dentro i pezzi per costruire tante figure. Cioè, messianismo è la scatola con dentro tutti i pezzi, messianismo, messianico, eccetera. Questi pezzi, che sono, ecco, facciamo un esempio, che sono l'attenzione verso il futuro, ma da una parte però anche una certa nostalgia delle origini, in quanto le origini rappresentano il tempo buono, che sono il rapporto negativo-positivo, ma anche qui dove negativo-positivo a sua volta copre più accezioni, perché c'è il negativo della colpa come in Israele, c'è il negativo della sofferenza, e nel negativo della sofferenza c'è il negativo come semplice dato di partenza da cui si vuole uscire, e c'è invece la sofferenza come assunta positivamente come strumento della stessa vocazione messianica, come diventa a un certo punto in Israele, il servo, eccetera, eccetera. Ecco, allora, così il rapporto individuo carismatico, capo, mediatore, collettività, la collettività stessa che a sua volta diventa mediatrice rispetto agli altri. Ecco, dai, sono tutti pezzi, questi e tanti altri, no? Sono tutti pezzi, prendendone due o tre dei quali si può di volta in volta costruire una certa concezione del messianismo. Perché di fatto è così. Fido chiunque a dimostrarmi che non è così. Cioè, a seconda del campo in cui uno lavora, allora prende tre o quattro di questi pezzi elementari e costruisce un certo tipo di messianismo, una certa immagine, una certa accezione, meglio, di messianismo. E ha tutto il diritto di farlo, perché appunto la famiglia terminologica messianico-messianismo non ha nessuna unità naturale, non ha un referente naturale, no? Ma ha soltanto un referente, non dirò del tutto convenzionale, ma appunto alla bricolage, no? Composizione di diverse combinazioni plurima a partire da pezzi elementari. Fatto questo e quindi denunciata, almeno per quanto ne vedo io, la impossibilità e la sterilità, credo, no, di pretendere di arrivare appunto a una accezione o una essenza del messianismo in sé, lì dove invece il messianismo appunto è una costruzione logica che di volta in volta allora che di volta in volta risponde all'ottica della disciplina che se ne tratta. Detto questo, allora proviamo a dire quali tipi di montaggi giocano nel dossier e in particolare in riferimento alle accezioni di popolo date sopra. Beh, in riferimento al popolo come unità che si distingue e contrappone agli altri popoli, dicevo l'accezione forse primaria del dossier, c'è una visione di messianismo in cui entrano questi pezzi, investimento dall'alto, quasi in tutti, investimento dall'alto, in una dimensione di trascendenza almeno quanto all'origine. Missione universale, un po' la trascendenza e universalità sono le due dimensioni che Fabri indicava ieri come tipo del messianismo cristiano. Missione universale, un popolo che si sente investito del compito di portare questo futuro della salvifico a tutti gli altri popoli, eccetera. Quindi dimensione di mediazione, un altro pezzo. Almeno questi tre. No. Viceversa, nella accezione del popolo in quanto classe, strato, basso, funziona prevalentemente, no? Questo è tutto un intreccio, funziona prevalentemente, rappresenta prevalentemente un tipo di messianismo come liberazione da una condizione di sofferenza, di negatività. Pensiamo ai movimenti messianici, il movimento messianico anche in Italia, no? in Toscana, del Monte Amiata, nel secolo scorso. Viene chiamato messianico, non si può mettere in discussione, perché appunto ha alcuni elementi, alcuni di quei pezzi che stanno dentro la scatola. Non sono io a chiamarlo messianico, no. Oppure ecco a molti dei movimenti di protesta e di volontà di cambiamento della medievale, o ancora a quello di Münster. Ecco, mi pare che appartengano più a questa tipologia che certamente si collega all'alto, sa di essere, d'avere per così dire l'autorizzazione divina, ma dove più che appunto l'unità di una collettività in quanto si contrappone ad altre o si differenzia da altre, spicca sulle altre, è invece l'unità di una condizione di negatività che cerca di che chiede salvezza, cioè che chiede risanamento. Ma questo elemento che è presente ed è, a mio avviso, l'elemento determinante anche nei cosiddetti messianismi del terzo mondo. Messianismi, o che altri chiamano millenarismi, altri movimenti profetici, altri movimenti nativi o nativisti, altri semplicemente movimenti religiosi di salvezza, il titolo del libro ormai classico di Lanternario. Ecco, allora in questi casi, questi movimenti di cui qui abbiamo esposti da Terrina, quelli dell'Africa, ma ieri sono stati ricordati quelli della Melanesia o ancora alcuni dell'America Latina, eccetera. Ecco, questi movimenti, il meccanismo di questi movimenti, a mio avviso, fa parte ha come connotazione fondamentale quello di fuoriuscita, salvezza come fuoriuscita della collettività in questione dalla sua situazione di miseria. Quindi direi fa parte della tipologia B. E tuttavia, in quanto questa situazione di miseria è stata indotta dalla irruzione violenta di un sistema coloniale, ed è quindi significato lacerazione del tessuto culturale, eccetera, allora aggiunge anche la questione B. Di quelle date sopra, no? Dei popoli, cioè preindustriale e industriale, o comunque ecco un tipo, no? L'irruzione su un tessuto comunitario naturale, l'irruzione di religiosa, economica, politica, invece di un modello di civiltà diverso, come gli spagnoli che arrivano in Perù, per l'appunto si diceva ieri, no? Arrivano in Perù e strappano i contadini alle terre, li mettono a lavorare nelle miniere e fanno la lotta contro la religione pagana e addirittura diabolica della pre-incaica India andina. Ecco, e danno delle strutture politiche che non rispettano, sebbene questo già sia più discutibile, ma insomma non rispettano totalmente la struttura comunitaria, eccetera. Allora, ecco, i messianismi del terzo mondo in genere, mi pare, fondono in sé gli elementi, una serie di elementi attinenti, no, alla sezione B e alla sezione D di popolo. Sulla sezione C, cioè il rapporto base, gerarchia, non, non mi pare ci sia, cioè bisogna, anche qui bisognerebbe leggere un po' obliquamente certi momenti del messianismo, di movimenti messianici medievali o altro, che hanno, assieme alle loro componenti più forti, hanno anche questo un po' di una certa protesta contro la dimensione gerarchica. Questo sarebbe una... Faccio un'ultima considerazione per riprendere un tema davvero fondamentale introdotto ieri da Prandi, e cioè la concezione del tempo in quanto elemento determinante del messianismo. Pare storicamente finora non discutibile, almeno dai dati che si hanno, che i messianismi del terzo mondo, anche quelli della Melanesia, sì, abbiano subito l'influsso, siano stati per così dire sollecitati, ecco, che la loro condizione di possibilità sia stata è stato l'influsso del messianismo biblico. In che senso? Nel senso che di fronte a una cultura di tipo mitico, a una cultura che si basa su dei o eroi culturali, espressioni delle origini buone, delle origini cioè della struttura buona della società, spesso anche del cosmo, quando la colonizzazione rompe questo tessuto culturale, rompe il principio di identità, rompe la possibilità di rifarsi al mito, che appunto si dimostra perdente, inefficace. Allora la presenza, il contatto, la presenza e la conoscenza del messianismo biblico permette a queste collettività non storiche, ma a queste collettività basate sul mito, nella sezione stretta o specifica di mito in quanto mito delle origini buone, ecco, il messianismo biblico permette di, fa scoprire questa possibilità impensabile dentro il quadro culturale originario, la possibilità che tornino i tempi delle origini, tornino i tempi buoni, cioè di proiettare al futuro il qualitativo del passato, di quel qualitativo, che non è quindi necessariamente proprio il ritorno tale quale al passato con tutte le sue modalità storicamente date, fattualmente date, no? Ma che la qualità ottimale del passato, l'età dell'oro, no? L'illud tempus, no? Torni la qualità ottimale del passato, torni al futuro. Ecco, allora io chiedo, credo sia un elemento interessante anche per il messianismo biblico, se quale di questi due elementi, insomma, sia più importante, se non siano tutti e due essenziali alla costituzione della coscienza messianica. Da una parte sì, quella su cui più si insiste, che ho anch'io ricordato, che la coscienza messiana è sempre una coscienza al futuro. Ma che sia giusto, ecco, contrapporla su pur invece alla coscienza mitica, che sarebbe rivolta al passato. O se invece la coscienza messianica non sia la ripresa al futuro dell'ideale ottimale, cioè di società buona, che il mito esprime come data ab origine. Ecco, e quindi se l'essenza ultima del messianismo, o comunque ecco, delle due componenti del messianismo, una proiezione al futuro e contenuto di società buona, queste due non vadano tenute tutte e due, e se non ci sia stato un eccesso di accentuazione sull'elemento futuro, e non sia invece pensabile un tipo di messianismo come promozione della società buona, in che modo? Magari anche lì dentro la struttura o l'orizzonte del tempo ciclico. Certo, non è evidente che il termine messianismo non è nato in quell'ambito, no? ma mi sembra giusto porre il problema. Poi vabbè, c'erano le qualcosa sulle due domande che lei formula, ma semmai avanti, no? Va bene. Allora ringraziamo Rizzi di averci dato ulteriori informazioni e anche provocazioni a chiarire e a tener conto perlomeno della complessità dei problemi, a chiarire, introdurre elementi di chiarificazione perché non si cammini direi allo sbaraglio e a sapere anche avere un po' di astinenza nella nostra capacità di giudicare, eccetera, anche se ammesso che il fenomeno è talmente vario, oggettivamente non dei fatti ma delle interpretazioni, soprattutto, per cui non si può non tener conto dell'uso ormai direi così divulgato e generalizzato del termine messianico. Poi non ha risposto alle due domande perché ci ripromette di fare dopo questo discorso, però ci ha posto anche un'ulteriore domanda sul discorso di ieri. Cioè, ed è venuta fuori due volte il tema della memoria e della profezia, in che misura il messianismo sia sostanzialmente una ripresa di questa memoria in senso mitico. Ecco, allora adesso abbiamo una buona ora disponibile a questo nostro dibattito. C'è già qualcuno che vuole intervenire? Io vorrei soprattutto insistere sulla seconda zona, che sembra un po' remoto dalla prima, quella che si nasconde al di là di quell'angolo. Donato vuol parlare? Allora, Donato Valentini, vuoi parlare? Don Donato. Poi c'è qualche altro secondo, altro Donato. C'è qualcuno per dare il primato di un... Mi riferisco solo all'intervento di Rizzi, in particolare al tentativo di caratterizzazione di queste due categorie, popolo e messiano, come stanno in messianicità. Ho qualche perplessità, d'altra parte egli stesso ha messo in evidenza che è difficile caratterizzare l'elemento essenziale di tutto quanto. Ho qualche perplessità circa, per esempio, il concetto di poveri, così come egli l'ha messo in evidenza, con riferimento anche all'America Latina. A me sembra che questo concetto di poveri, in riferimento all'America Latina, debba, stando almeno a gran parte dei documenti dell'America Latina, anche quelli formali, recuperare anche quanto ha detto circa A, investimento dall'alto per una missione universale. Il foro dell'America Latina, e riferisco anche una tesi difesa in stato italiano ultimamente, è stato relatore, il foro dell'America Latina intende veramente forse come anche un messaggio per gli altri poveri. E quindi avere un investimento dall'altro nel senso proprio spiegato in A. Domando se questo può avere una certa credibilità. Seconda domanda, sempre una domanda. Ha accennato a Scannone. Ora, stando agli ultimi studi di Scannone e anche altri suoi studi, quelli almeno principali, mi sembra che egli si ponga proprio come colui il quale non intende contrapporre popolo a gerarchia. E Cunghera ed altri, egli intende, per esempio anche l'ultimo studio apparso nell'opera di Curata di Noite della Gregoriana, sulla teologia della liberazione, con tutto quanto le posizioni che fa, proprio come esclusione di questa contrapposizione. Quindi, se questo è vero, questa puntualizzazione mi creerebbe qualche difficoltà. E concludo dicendo che io sono convinto che è vero che non sembrano testi elementari, montari, eccetera, eccetera. E perciò sono due osservazioni che forse non hanno molta forza. Tuttavia, anche per avviare un certo discorso, grazie. Io segnalo che ho la sensazione sempre di presupporre la comunità dei teologi più presenti e di presupporre che il cammino è già fatto. per cui infatti sto per scontato alcune precisazioni. Don Donato aveva già fatto, e poi è stato stampato negli atti dell'Associazione Teologica Italiana, un discorso sull'identità culturale del popolo, intesa in un senso di collettività, di comunità. E quindi ha discusso già i problemi del rapporto fede e identità culturale del popolo. Quindi, praticamente, alcune cose dell'applicazione fatta da Ricci sono state già in anticipo, forse preparate da questa sua riflessione. E anche per la distinzione delle quattro accezioni di popolo, Don Tura in un discorso che abbiamo fatto sull'esercito popolare a Verona, proprio il dialogo con i teologi dell'America Latina, che è quello pubblicato da Leoniano, aveva già distinto tre accezioni di popolo, praticamente abbastanza vicine alla distinzione che avevi fatto tu. Forse la più interessante tua, io che ormai suggerisco di discuterla, sarebbe la quarta, che mi pare che poi è trascurata, la viva, cioè quella del recupero della naturalità, di quel primo di radicazione, di unità, ecco, che sembra forse oggi molto più pretetica, l'hai chiamata tu, che sembra molto interessante al nostro livello, ma domani io ti provoco, ma volevo appunto accennare che quasi quasi io presupponevo che sul concetto di popolo ci fossero già in gioco da noi delle distinzioni, però ogni tanto ritornano le confusioni e quindi è molto importante fare le chiarificazioni. Questo per spiegare un po' l'intervento anche sui vari libri. Tu, Roberto, allora già che c'è Tura. Volevo fare una piccola accenno proprio sul quarto significato di questo libro. Cioè, nel retroterra quasi estrinseci della meccanicità di un popolo, noi sentiamo molto sull'affatto della storia. A me è stato interessante anche tenere conto della geografia di un popolo americano, nel senso di spiegare di un senso. Per la Russia, per esempio, per il popolo russo nel suo messianismo, mi sembra interessante l'elemento della immensità della pianura, senza confini, per orientare questo popolo alla percezione di una fraternità da raggiungere. Per cui il meccanismo è orientato chiaramente su una linea ecumenica di fraternità, mi sembra, anche per questo motivo. Non so se il termine naturale possa comprendere dentro anche il termine apostolico, ma potrebbe evidentemente essere una condizione proprio interiore, ma che in qualche modo preordina delle coordinate di situazione. No, gli occhi abbassano la terra, per esempio, in Dostoevskij. No, è un testo tipico. Verso la madre terra, da cui tutti si nasce fratelli dall'unica madre. C'è un qualche cosa di cosmico che si avverte e che precondiziona in questo modo la religione. La colorazione di religione. Ma vuoi tu dire? Va bene. Per non accumulare, perché se no poi di noi accumulare è sempre più difficile. L'intervento di Don Valentini, io non avevo su Scannone, la cosa è molto semplice, ribadisco che il termine contrapposizione non ha un senso contrasto reale, no, ma di opposizione logica, cioè nella definizione dei due, no, è quello che i semantici, i semiologi chiamano il versus di esse, no, popolo versus gerarchia, che è un rapporto di bipolarità che può essere dalla collaborazione alla contrapposizione reale, eccetera, eccetera, no? Ma dove quello che lo definisce proprio è il definirsi per antitesi logica, ecco, quindi non c'è nessunissimo. Quando invece mi sembra più problematico, per quello che io ne so, e non è moltissimo, ma non è neanche pochissimo, sulla teologia della liberazione e sui poveri dell'America Latina, mi sembra eccessivo, non è calcare o addirittura, ecco, far entrare come elemento qualificante anche la dimensione universale. C'è molto per esempio in Dussel, no? Il filosofo della liberazione, questo elemento addirittura di un nuovo pensiero, una nuova filosofia, è finito il pensiero europeo, eccetera, e quindi noi dobbiamo portare, ma mi sembra che l'istanza enormemente prioritaria è quella di far uscire i poveri, far uscire i miseri, no, ecco, da questa condizione di non dignità della loro vita. Ecco. Certo, tutto questo costituirà anche un nuovo modello di sviluppo, eccetera, eccetera, no? Economico, culturale, via dicendo. No? Anche questo, anche perché oggi non è più possibile pensare un problema in termini puramente geograficamente settoriali, senza dargli un'estensione planetaria. Però non mi sembra questo l'elemento così nella coscienza della gente più vivo, anche perché intanto già appunto questi poveri sono un continente, ma non sono una nazione nel senso invece come lo è la Russia o la Polonia, eccetera. Sono un continente dove ogni parte, ogni nazione oggi, ecco, assieme a, come spesso avviene, no? Presenta assieme queste due caratteristiche contrastanti ma solidali, di avere almeno alcune grandi difficoltà ad acquisire una coscienza nazionale e al tempo stesso allora il bisogno di affermare l'unità contro. Ripeto, riprendo l'esempio del Perù, perché sono stati 3 mesi l'estate scorsa, no? In Perù uno dei problemi centrali è quello di formare una coscienza nazionale, perché per gli indios essere peruviani, cosa vuol dire? Allora, tra l'indio che tu aimara e diciamo gli spagnoli, i figli di spagnoli, che unità c'è? Ecco, allora il problema della coscienza nazionale oggi è uno dei più vivi tra quelli che pensano, però al tempo stesso il Perù ha delle grandi date, che sono le date delle guerre, no? Magari perdute. Le date, per esempio, della guerra contro il Cile a fine del secolo scorso, dove il Perù le ha prese a 6-0, no? Però festeggia, no? Così che fa. Perché è un principio, no? È un principio, credo, no, di sentirsi noi. Evidentemente è un principio che è in buona parte gonfiato dal potere politico, eccetera, eccetera, eccetera, no? Comunque è evidente che questi sono elementi di valuta quasi di dosaggio su cui è anche difficile cogliere. Per quanto l'intervento di Tura, intanto è interessante che avesse individuato 3 asi, io non conoscevo il suo articolo sulle 3 asezioni di popolo, ma se corrispondono alle prime 3 date da me, mi pare che c'è una buona coincidenza significativa, ecco, mi fa piacere. Quanto alla... Ecco, il rapporto popolo-geografia, non solo di popolo-storia, sono perfettamente d'accordo e mi permetto allora di dire di nuovo come cosa vuol dire storia. E mentre geografia, ecco, è uno dei termini che mantengono un loro referente grosso modo unitario, anche se poi c'è la geografia politica, ecologica, eccetera, eccetera, no? Invece storia no. Storia, io direi peggio ancora, di messianismo. Cioè, storia non ha nessun referente unitario. Storia è uno dei tipici termini che si costituiscono come pochi altri per differenza, cioè per contrapposizione logica. Allora, di volta in volta bisogna vedere cosa vuol dire storia, cioè a che cosa si contrappone. Allora, ecco, c'è tutta una letteratura notissima, biblico-teologica, di estrazione protestante, soprattutto culmaniana, che è entrata nella teologia cattolica, la storia di salvezza, eccetera, no? Dove storia fa binomio oppositivo, nel senso detto, con natura, e quindi con terra e geografia, eccetera. Lì dove allora dire che il messianismo biblico oppure i messianismi sono radicati nella storia, cioè sulla terra, no, non è dipende, cioè, storia addirittura può voler dire che sono quei messianismi che hanno tagliato il cordone ombelicale con la terra e si lanciano appunto verso il futuro, verso un futuro di che cosa? Ecco, allora storia vuol dire un futuro dotato di teleologia. dove allora la sezione di storia che gioca è chiaramente quella che nelle sue categorie più strette è stata, ha trovato la sua espressione più matura in Hegel, eccetera, eccetera. No. Cosa che a me ha sempre lasciato molto, mi riparto molto sospetta, no? Molto sospetta. Io credo invece che sia davvero importante recuperare questa altra storia, cioè la dove radicazione nella storia, di radicazione invece nella natura, cioè nella non storia, no? Nell'altra. Ecco, nella, a parte poi l'altra sezione di storia uguale storicità, quella busmaniana, buberiana, che io amo, ma comunque non voglio interferire con interessi diversi, no? Ecco, la natura, la geografia, credo che sia davvero importantissima, e che si collega a quella quarta sezione, no, di popolo, che collega la sezione A e la sezione D, no? Cioè quanto in queste... in questi popoli intesi come unità di coscienza e di missione, non ci sia alla base invece una unità etnica, proprio nel senso cioè terrena o sanguigna, no? Sanguigna, legata appunto alla, a tutte le va bene, ecco, è importante rendersene conto, cioè è importante vedere la parte che ho tralasciato, no? Anche cioè io sposo interamente tutte le cautele, mettere le mani avanti del testo di Sartori sul carattere, sui pericoli insiti nella totalizzazione organica del popolo. Perché appunto questi popoli, quanto più hanno una missione, tanto più se si va a vedere si ritrova, no, una unità non è da Dio, ma è dalla carne e dal sangue. Allora abbiamo quattro prenotati, due dell'emisfero sud, Giuliano e Terrini, due dell'emisfero nord, Giannis e Moretti, li ho messi in ordine a seconda della storia della lavata delle mani. Allora, Giuliati. Allora, pensando, credo sia una cosa, penso, possa essere interessante, unire la voce storia con la voce geografia. Questo per esempio mi viene in mente un'area che sicuramente non è stata citata, è venuta fuori, ma non è stata focalizzata all'inizio del programma, cioè quello del messianesimo spagnolo, con il contesto di Stalinato. Sarebbe interessante che si rifà tutto la saga, diciamo così, con il Campeador della Reconquista, una delle parti più interessanti. Perché credo che ci sia da unire la voce, chiamiamola successione cronica di avvenimenti, cronologia, quali fatti avvenuti in epoche successive con la posizione storica. Perché, per esempio, per la Polonia, se senz'altro, e ci sono memorie molto attive, per esempio, l'essere stata fronte del mondo cattolico che a varie volte con il suo sangue l'ha salvato dall'invasore che veniva dal sud o dall'est. Pensiamo per esempio alla tornata di Gengis Khan alla metà del XIII secolo, che veniva, e poi la storia di l'olocausto sul ponte di Karlberg con Giovanni Sovietti, che il Papa ha ben tirato fuori, interpretato da noi come un reduttito di nazionalismo aggressivo, e interesse dalla parte polacca si unisce anche con il mito di Czestochowa e ha dei riflessi molto importanti. Dall'altra parte, direi, è trovarsi per cinque secoli un piccolo popolo, piccoli popoli di tipi che riescono a rompere la tenaglia dell'aggressione araba, che è una globalità contro un'altra globalità, dalla parte dell'Ovest, ed essere riusciti poi a rimandarlo indietro. Ora è interessante notare come fosse il concetto del Stalinismo fonda, e forse anche nel concetto del Polacchi, essere noi, poveri in fondo, piccoli popoli arroccati sui Pirenei, che investiti dall'alto siamo stati aiutati a salvare la cristianità e poi forse a portare qualcos'altro ad altri popoli. Solo che a questo punto salta fuori la dimensione imperialistica, che è una cosa interessante da osservare, perché nello stesso tempo in cui i polacchi si consideravano proprio la frontiera dell'est, erano un grande stato che abbracciava dall'Ucraina fino alla Lituania popolazioni che non erano affatto polacche e che venivano trattate non alla pari. E dall'altra parte, nel mondo spagnolo, l'Hispanidad si tramuta in strumento di portare sì il cristianesimo ad altri popoli, però contemporaneamente abbattendo l'indipendenza e la civiltà degli altri popoli. Cioè, è veramente interessante. E d'altra parte, siamo onesti e sinceri, nel momento che si celebra l'Olocausto nel popolo ebraico, che forse ha assimilato a tutto se stesso, patronato, cioè il Messia in una dimensione corporativa, ora non sarei un pochino cauto nel non dire che ci siano episodi di imperialismo nello stesso modo in cui si è insediati e si come mai era questa componente? Perché noi siamo abituati a considerare che la conquista spagnola è un classico tipo di imperialismo, con un ammanto ideologico della religiosità. Non vorrei che questa fosse un po' la proiezione della coscienza sporca, che è particolarmente viva della coscienza critica, che io ritrovo proprio tra i cattolici, e si tende a trasformarsi in irenismo. Cioè che molte volte noi studiamo così vivo il complesso di colpa del passato che siamo molto portati ad attribuirlo soltanto a noi. Non mi pare che in altre componenti culturali ci sia questo complesso di colpa che poi porta a fare l'esame di coscienza. Non mi pare, per esempio, che sia soltanto sviluppato in altri gruppi che noi chiamiamo fratelli. Per esempio, il fatto che il Papa vada a salutare l'amico, cioè il patriarca, e quello che si è tranquillamente seduto, è soltanto perché loro sono abituati a stare seduti, perché tutto sommato è persuaso di essere superiore. Allora a questo punto dobbiamo avere il coraggio di dire che qui loro non hanno fatto lo stesso cammino che abbiamo fatto noi. Non credo che dobbiamo sentirsi talmente da andare a canotta, senza incontrarsi nella strada. E dire l'ismo credo che sia un elemento identificatorio, ecco. Per cui credo che ci siano queste varie componenti che ho risposto un po' confusamente da tenere presente. Però sono molto importanti, pare. Il fatto di essere o sentirsi una piccola minoranza di frontiera, che qualche volta non significa che ci sia una piccola minoranza, ma sentirsi una piccola minoranza di frontiera che riesce a fermare un'aggressione non soltanto verso io, ma verso il mio nome più basso, giudicandolo avvenuto in maniera evidentemente superiore alle nostre possibilità, perciò per un intervento superiore, che gli dà l'incarico di continuare questa lezione e anche di esportare la salvezza. E in questo punto si introduce l'elemento di imperialismo, e può diventare il messianismo o una giustificazione o uno strumento di aggressione. Carini? Vieni qui, va. Se viene avanti in tradizione. Io sono avanti, antropologica del messianismo, è nota pagina 17, di cui ora si fa un po' riferimento in questa discussione, anche se non mi connetto direttamente con quello che è stato detto da professor Misuritti. Cioè, ritengo che dallo studio che ho fatto dei popoli messianici e delle messianità in Africa, sia sempre un'omologazione del Dio cristiano al potere, in fondo, come viene bene notato a pagina 17. Cioè, c'è questa copertura ideologica del potere attribuita alla visione stessa del Dio cristiano. Ora, in questa stessa nota, si dice che allora come passare oltre questo fatto, che diventa proprio un impatto per ogni messianismo che voglia esplicarsi in maniera più libera e più vera. Si dice qui cercare, perché non secolarizzare, per esempio, lo stesso concetto di Dio, la stessa ideologia cristiana, secolarizzare, cioè andare verso un ideale della laicità. Ora, io penso che questo proprio il cristianesimo, quasi il nostro cristianesimo, come è concepito, ci impedisce di capire diversamente Dio, quasi. Cioè, noi abbiamo ormai, nella nostra teologia, un concetto di Dio che è politico, sociologico, per così dire, e non c'è possibile svestirsi di questa concezione di Dio. Ora vorrei chiedere a tutti fino a che punto noi possiamo capire Dio diversamente da come la teologia cristiana, il cristianesimo in fondo, ce l'ha presentato, e cioè se è possibile una concezione di Dio che lasci spazio a un potere che non è più direttamente o indirettamente connesso alla visione stessa di Dio, in questa commissione dove non si capisce più l'elemento religioso e l'elemento sociopolitico. Sarebbe interessante approfondire questo concetto, anche perché ritengo che tramite questo studio, appunto, del messianismo in Africa, mi ritorna sempre un'idea orientale, in fondo, perché Dio deve essere sempre connotato così politicamente e sociologicamente. Ecco, in questo caso. Penso che, mi permetto di fare una mia interpretazione, penso che questo tuo intervento focalizzi un punto che si connette a una chiarificazione di quello che ha detto Don Giuliati, e non solo lui però. Cioè, ecco, allora abbiamo l'appello di queste minoranze di frontiere, dice lui, a un potere, a Dio come potere, che dà forza, di modo che quando poi c'è un piccolo successo, allora si adopera ancora quel potere, cioè la logica del passaggio da un messianismo che fa appellare a un Dio potente porta facilmente dopo a utilizzare la potenza di Dio per sacralizzare l'imperialismo. Allora noi dovremmo studiare, dice Don Terrin, questa concezione è una maschera, è una mitologizzazione, addirittura che ci impedisce di scoprire il vero Dio. Adesso in mente il convegno che faremo qui a Trento, l'anno 21, teologica, nella sezione teologica, sulla carità, l'amore. E forse bisognerà offuscare il concetto di potere e dire annebbiamo un concetto di amore, ma allora l'amore senza l'onnipotenza. Si può eliminare del tutto l'idea di Dio onnipotente? Il potere è automaticamente demonizzabile, l'onnipotente, il fantocratore, è un discorso, io penso, veramente centrale, importante. Ma l'ho collegato al precedente intervento di Giuliati per spiegarmi questo facilissimo passaggio da una minoranza oppressa che quando acquista qualche cosa di potere lo usa di nuovo dinamicamente per un imperialismo. E l'ho connesso con un discorso futuro che sarebbe interessante da fare. È possibile, c'è un concetto così puro di Dio, supponiamo del Dio amore, Dio carità, che impedirà veramente del tutto le utilizzazioni ideologiche e funzionali. Allora sentiamo Dianis, Moretti e poi il professor. Devo dire qualcosa sulla memoria, sul tema della memoria. È qualcosa in negativo. Abbiamo visto l'importanza della memoria nel messianismo, però pensavo di dare uno sguardo anche sulla nostra società industriale avanzata, che sembra avere una caratteristica di essere un insieme di popoli senza memoria. Chi vive a contatto dei giovani e chi professore di storia nelle scuole medie, per esempio, denunciano l'enorme difficoltà a far gustare la storia, cosa che poi viene una delle cose di piacere. E non solo, ma osserviamo che, per esempio, gran parte del revival delle sagre che si ha in Italia oggi è un insieme di operazioni indotte, di carattere molto o commerciale, turistico. Cioè, dove la sagra viene ricostruita o inventata addirittura a tavolino, per fare spettacolo o per fare turismo, quindi non è la memoria storica, ha nulla a che fare. E tutto il problema allora della nostra religiosità popolare, è anche il problema della riforma liturgica, per esempio, da noi cosa significa un'operazione come quella della riforma liturgica, che in parte è un taglio nella memoria storica, un taglio artificiale introdotto nella memoria storica, cioè tutta la tradizione rituale, musicale, sentimentale, l'occasione, le campagne collettive, molte altre cose che a un certo punto vengono interrotte o tagliate sia dagli eventi sia dall'intervento dell'autorità dentro un flusso che di per sé sarebbe intoccabile, si può toccare. memoria storica. E che cosa questo può significare per il nostro paese? Un'altra cosa vorrei dire a proposito della definizione possibile delle varie accezioni di popolo, è venuta fuori in una risposta di Rizzi l'altro termine nazione. E non sarei tanto d'accordo con quello che diceva Rizzi, che il messianismo provoca molte difficoltà e popolo non tante. Io vedo molto difficile anche la determinazione del concetto di popolo, perché il senso di non mi pare che si trovi molto su cos'è la società, cos'è la comunità, ma cos'è il popolo? Io ho cercato, non l'ho trovato. C'è un lema del tipo dei nauti, che ha fatto un po'. L'ha fatto la cosa. Esatto, chi ha fatto? Comunque ho in mente, consiglierei una lettura di un libretto di Federico Chabot sulla nazione del Consiglio di Nazione. Allora lì viene fuori un altro elemento, chiaro, la nazione non dice poco, però si collegano, non possiamo tenere separate le due cose intorno al tema del messianismo. E allora lui mette in luce nel concetto di nazione non tanto il preestetico, ma al contrario, il progettuale, il consenso, la volontà di essere nazione. Tito Renan che parla del plebiscito di tutti i giorni, a proposito della nazione italiana. Sarebbe il punto di un plebiscito di tutti i giorni, e quindi lì sarebbe non tanto il riparti ad un dato, ma piuttosto una volontà collettiva, più o meno collettiva, che vuole la nazione, la creazione della nazione. A questo collega la divinizzazione della patria, il concetto della divinizzazione della patria, quindi che si vuole dire ancora gli elementi biologici che entrano in gioco. Importante di questo. Allora cosa vuol dire questa volontà di essere più che la presa di coscienza di dovessi? E cosa vuol dire essere la presenza o l'assenza di questa volontà di essere? Io ho un'esperienza personale familiare che vorrei criticare. I miei genitori sono nati in un paesino dell'Istria dove si parla il rumeno e si trova in Istria la lingua materna dei miei e la lingua rumena. Sì. Una piccola comunità di 2.000 persone che erano venute più perché si è passata. Ce n'è altre in Slovenia, ce n'è altre in Serbia, eccetera, in cosiddetti Vlachi o Valachi, no? O i Cici, i Cici nella storia. Ebbene, io sono sempre stato colpito, ripetuto su questo, in casa mia si parlava di rumeno, ma sia i miei, sia nella parentela, eccetera, si vergognavano di parlare quella lingua. E di fronte agli altri non ha mai voluto parlarla, perché si vergognava di parlare. Perché questo però? Allora il realizzare che bisogna integrarsi. E la riflessione analoga l'ho fatta anch'io, vengo da un viaggio in Perù, meno recente di quello di Ricci, in un villaggio dell'altopiano a 4.500 metri in altezza per la festa di Sant'Antonio il 17 gennaio, dove confluivano tutte le comunità intorno, gli unici col concio eravamo i due preti. Perché il giorno della festa tutti hanno preso il concio ed erano con quelle giacchettine di plastica americane che pagano l'occhio della testa, perché sono carissime, mentre i lavori di lana fatti a mano lì non costa niente. Però il giorno della festa quindi cos'è questa tensione? Per cui viene appunto da un dubbio cattivo, no? Perché a volte i movimenti di ricerca dell'identità non siano indotti, non siano operazioni culturali che tutto sommato sono da di fuori anche quelle, che cosa allora dove sta la genuinità di un'operazione del movimento? Tenderei a tenermi al mio ruolo lì che è scritto di antropologia, così, ma poi vuol dire tutto, vuol dire niente, insomma, no, al mio ruolo che mi sono preso, no, di rompiscatole fatto di linguaggio, e quindi non interverrò su tutte le questioni teologiche, no, perché poi c'è tutto il pomeriggio, quindi mi sembra inutile invadere poi, no, ecco, riferendomi a quello, proprio faccio due osservazioni sul tuo intervento, Severino, sui due aspetti, anzi tre, su tutte e tre, la prima è che riguarda poi il rapporto con la memoria. Ecco, è giusto giusto il discorso sulla memoria, non ho nulla da eccepire così, ma quando io mi riferivo al mito del mondo buono, al mito come narrazione del mondo costruttivamente buono, che viene poi ripreso e proiettato al futuro, ecco, qui non è tanto la faccenda della memoria, infatti lì ovviamente non è memoria storica, perché non c'è storia, no? Semmai è un archetipo, ecco, semmai, no? Quanto, proprio il contenuto, ecco, a me sembra importante sottolineare questo aspetto, no? Che nel rapporto futuro-passato, profezia-memoria, c'è un certo pericolo, ecco, assieme alla qualità, assieme alla positività, no, di queste bipolarità, non c'è pericolo di restare sul piano formale, no? Futuro, passato, cioè profezia, memoria, ecco, lì dove invece, assieme a questa dimensione formale, mi pare che la presenza del mito dentro i messianismi del terzo mondo è soprattutto proprio presenza di questo contenuto qualitativo, ecco, un aspetto su cui si è, a mio avviso, insistito troppo poco, che il messianismo ha come contenuto, credo fondamentale, proprio elementare, quello che c'è comunque in tutto, sempre in tutte le sue modulazioni, cioè quello di un vivere, di un convivere buono, felice, giusto, ordinato. Tra l'altro nasce proprio così, come aveva un aspetto che ieri, su cui ha insistito, mi sembra un po' inutilmente, cioè si è sentito molto, molto opportunamente, ma che però è sempre stato lasciato cadere, ho l'impressione, ha detto Fabri, cioè che il messianismo ebraico nasce come meccanismo regale, ecco, lì dove il re è colui che gestisce il buon ordinamento di Dio sul mondo. Evidentemente poi ogni lettura è condizionata da quello che uno a sua volta ha letto, eccetera, ma a me sembra molto convincente questo germe dal punto di vista storico, messianico, regale, lì dove però non è il re come figura, ma il re come colui che gestisce il buon ordinamento di Dio nel mondo, Salmo 72, no? Ecco, allora qui non è tanto questione di memoria, no? Quanto di contenuto, che non si può chiamare storia, no? Il futuro, no? Di un contenuto, ecco, se vogliamo, archetipico, proiettato in avanti e quindi diventa contenuto utopico. Invece proprio più in fretta, proprio due, mi sembra, ecco, necessarie precisazioni più strettamente metodologiche. È vero, tu dici, il popolo è difficilissimo da definire, i sociologi non lo definiscono, ma infatti la mia piccolissima indagine non si riferiva a quello che ne dicono i sociologi o altro, ma all'uso che di fatto circola in chi ne usa. No, dico, chi ne usa, quando dice popolo, ecco, di fatto in atto esercito, mostra di usarlo di volta in volta in una o l'altra di queste accezioni. Sia sociologo, sia teologo, sia uomo della strada, no? Lo usa in uno e l'altro. Io facevo un po' una fenomenologia di questo linguaggio corrente, una fenomenologia del linguaggio del quotidiano, cercando di dimostrare come è l'uso che fa il senso, no? Perché nell'uso appunto si istituiscono le differenze. Ecco, e poi i sociologi tentino a definirlo così. Ma la differenza allora tra un termine come popolo e uno come messianismo è proprio questa, no? Che il popolo è un termine comunque usato, mentre messianismo è usato solo dentro un certo ambito. E l'ultima osservazione sempre riguarda il popolo-nazione, ecco, se voi insiste sul carattere estetico della nazione, sì, certo, ma già parlando dell'accezione di popolo, osservavo come il suo carattere di naturalità non va inteso necessariamente nelle sue figure più semplici o tribale, no? Cioè quasi di una naturalità senza cultura, che poi tra l'altro non c'è mai, no? Non c'è mai. Ma di una naturalità che è, come dire, la base, ecco, ispiratrice la base motrice, poi di un atto tetico che c'è sempre. No, non c'è mai nessuna tribù soltanto naturale, di Naturvölker, è una dizione tedesca, pare ormai superata, no? Tutti i popoli, tutte le tribù sono fatti culturali, ma è di una cultura che è, vuole essere radicata, radicata nella, e questo dico vale anche nelle forme alte appunto di Rousseau, e a mio avviso anche almeno del giovane Marx e di molti altri, di Tönnies, no, nella sua questione della comunità, in quanto contrapposto società. Invece dall'altra parte la tesi è costitutiva, ed è l'unica che costituisce, no? Quindi uno non ha da trarre, ecco, da sé quasi una specie di fedeltà a rinnovare ogni giorno quasi, no, il suo atto tetico per essere se stesso. Non c'è una fedeltà, semplicemente che uno dice: sono me stesso in questo modo, domani in quest'altro modo, perché ecco, è l'arbitrium quello che costituisce, non tanto la volontà, ma la volontà arbitraria, in quanto si distingue dalla volontà naturale. Quindi io direi che il concetto di Chabot è a livello molto mediato, è ancora dentro il concetto di popolo come naturalità. Sono contento perché aumentano visto le mani gli appetitosi, però io vedo che ormai sta passando l'ora lobby. Dunque sono per figli, oltre che Moretti, anche Prandi, e poi c'è Bo, c'è Stefani e c'è Gossini. Io do la parola a Moretti e Prandi, poi eviterei eventualmente, preferirei Stefani che non è intervenuto ieri, e perché noi abbiamo già sentito sia Goff che Boff. Sarà tempo, darò anche loro la parola. Allora adesso Moretti, cercate di essere brevi per poter dare la parola a Stefani. E il professor Rizzi ha detto che il minimo denominatore comune del messianismo è l'attenzione al futuro. A me sembrerebbe che anzitutto noi dobbiamo guardare al messianismo biblico. Qual è il messianismo biblico? È doppio: il messianismo di un popolo, il popolo ebraico, il popolo eletto, e il messianismo è che è princeps analogatum della persona di Dio fattosi uomo in Cristo. Perciò io crederei che ogni messianismo, anzitutto non basta che abbia un'attenzione al futuro, ma ogni messianismo deve avere un principio di Dio, viene da Dio. È Dio che dà alla persona incarnata in Cristo, al popolo da lui eletto, un compito particolare. Seconda caratteristica del messianismo è che quella persona, quel popolo, viene chiamato a essere mediatore, come ci ha detto Padre Sierra. Terza caratteristica del messianismo, viene chiamato mediatore per valori salvanti. Valori salvanti a altre persone, oltre a lui ovviamente, perché lui fa da mediatore. Ora, questo messianismo biblico, da cui parte, secondo me, secondo quel che abbiamo sentito e quel che è scritto in questo schema, insomma, è un messianismo che può essere, che si deve scoprire in tutti i popoli, e tutte le persone possono avere il messianismo. Cioè avere quel Cristo che ha detto che quando aiutate un povero aiutate me, quando andate a visitare lui siete sempre a visitare me, e anche colui quale dice evo vobiscum sum, insomma con voi popoli e con voi individui. Quindi parlare dei polacchi, parlare dei russi, parlare dei spagnoli e non parlare di tutti gli altri popoli. Tutti siamo chiamati a essere messianici in quanto ci sentiamo senza nostro merito il dono di Dio in noi che si chiama a fare per gli altri, e perciò io vedrei aggiungendo un'altra caratteristica, non semplicemente portatori di valori salvanti, ma portatori con la nostra povertà che è grandezza di Dio, e in questa povertà c'è anche la sofferenza. in questa povertà sei la scelta degli umili a fare da mediatori di Dio per tutti per questa trasmissione messianica. I valori salvanti poi sono valori nell'umano secolare e nell'umano religioso. E allora vedere che tutti i popoli, anche i del terzo mondo e più lontani, hanno anch'essi avuto da Dio una missione nell'intera umanità, questo mi pare che sarebbe un modo più vero di andare a fare l'attività missionaria, cioè scoprire anche negli più umili popoli, appunto perché sono umili, appunto perché il messianismo è un dono trasmesso da Dio all'uomo o al popolo, cioè al singolo o al collettivo, non per le sue forze, per le sue armi, per la sua violenza, perché allora non è messianico, ma è per la sua umiltà e per la sua povertà, che però è cosciente della presenza divina in lui. E allora mi pare che oggi qui potremmo scoprire che tutti abbiamo una nobiltà e una grandezza messianica che ci viene se noi la viviamo, questa grandezza e questa forza messianica, con la coscienza che poi noi dobbiamo dare fine sacro e fine sera a portare questo messianismo nel mondo, cioè non con la forza nostra, con le nostre energie, ma con la forza di Dio. E che cosa allora riceve anche la Chiesa da questo messianismo? Riceve un invito all'umiltà, a non credere che lei deve solo piovere i doni dall'alto, ma sa qualche cosa da ricevere anche da qualunque popolo dove vada in missione lontano o dove vada a rafforzare la vita ecclesiastica vicina. E allora ecco che ne deriva che si ha con il concetto di messianismo una modestia maggiore nel potere gerarchico e una fiducia maggiore in ciò che viene dal popolo. Ed io ricordo con riconoscenza che il primo vescovo che è arrivato in Friuli, che si è degnato di imparare il friulano e che sa anche predicare il friulano, è un signor Battisti, che poi in Bologna non avete voluto volere. In bolognese è il primo vescovo. E noi il friulano, di cosa possiamo fare? Ora quanto riesce, ma con la povertà della nostra antica storia, potremmo essere un umile contributo come tutte le minoranze, all'Europa, cioè farla presunione, avere la modestia di sentire che quando si è sui confini si scopre che sono degni di rispetto agli slavi che stanno da questa parte, che sono degni di rispetto, ma non sono quei grandissimi tedeschi che stanno qua più in alto e che noi ne abbiamo vicini. Mettiamoci anche più vicini a noi, per me sono i compagni del Partito Comunista di Fiesole e per lei sono quelli di Trento, di così, no? Cioè, perché quelli lontani sono sempre messiani, questi, o i radicali, eccetera, no? Anche questi sono messiani. Allora, detto questo, dico, non cambio neanche una virgola quello che ho detto, però in quanto cristiano, in quanto credente, in quanto teologo cristiano, ma il mio discorso voleva essere appunto un discorso puramente di analisi del linguaggio, quindi è il minimo denominatore comune di quello che circola nel termine messianico. Lui ha parlato della scatola, permettetemi di bricolage, no, il gioco, e lui ha fatto un gioco, ha detto, io sono qui, fino ancora per un quarto d'ora, in posizione di autocastrazione. Ma certo, ieri abbiamo cominciato con una parolina scontra, Allora, Franti e poi Stefano vuole sentire, sono curioso di sentire. Io sono stato sul dissesto, dalla definizione che Arizzi ha dato del concetto di popolo, cioè dall'inizio e dalla fine, sul rapporto fra coscienza messianica e coscienza mistica. Io partirò dal primo, cercherò di essere breve per via del tempo. Sono stato sollecitato dal tema popolo perché ne sono occupato anche in quel titolare uscito recentemente da Angeli. Ecco, intanto io vorrei sottolineare che penso che si possa dire che il concetto di popolo e di popolare è una creazione della cultura russa. Cioè, dire, è il romanticismo a partire da Herder e da Goethe che hanno inventato il concetto di popolo, e quindi è un'operazione della cultura egemonica. E quindi andare a recuperare il concetto di popolo precedentemente a questa data, cioè precedentemente alla fase del romanticismo, è estremamente difficile. Ecco, infatti, delle due o quattro definizioni, direi che la prima e la quarta sono più o meno di derivazione rutuliana romantica, la terza di derivazione teologica, la seconda di derivazione più o meno marxista. Ecco, io nella mia riflessione sul concetto di popolo popolare sono partito da delle posizioni marxiste e poi mi sono accorto che sono posizioni estremamente schematiche che tolgono in gran parte vitalità al concetto stesso. Il concetto di popolo non è soltanto ed esclusivamente una riferibile ad una realtà costituita dalle classi subalterne. Ecco, io forse sarò oggi con una fase di ricerca e sto orientandomi verso definizioni che recuperano delle categorie di Levi Strauss, addirittura della mentalità primitiva, nel senso che a mio parere esiste in ogni situazione storica, in ogni gruppo, un livello conscio, un livello inconscio della dinamica culturale, e io tenderei a definire il livello inconscio come quindi luogo di accumulazione della memoria, quello che è il concetto di popolare addirittura in questo livello, che vuol dire che esso non coincide più con uno strato in particolare, ma che cammina sugli strati, anche se in determinati strati esso è soggetto molto più facilmente all'intervento del potere. Ecco, non si può non pensare al concetto di popolo se non lo si vede anche in rapporto al potere. E qui mi riferisco ad alcuni casi, ad un caso abbastanza specifico che poi è legato al messianismo stesso, che è il caso del fascismo. Il fascismo ha scoperto anch'esso una propria volontà messianica. E intorno al fascismo si è creato nel periodo tra il 1928 e il 1936 un grosso consenso popolare. Ecco, a che cosa era dovuto questo? Ecco, qui interviene il concetto di carisma, interviene il concetto della capacità che hanno le classi dirigenti di esprimere determinati personaggi che hanno anche delle qualità proprie, intrinseche, che poi sono in grado di far coagulare una volontà generale e di orientarla sia in senso positivo anche in senso negativo, perché esistono dei meccanismi anche in questo senso. Cioè, se non ci sono soltanto i meccanismi basati sulla sofferenza propria, ma anche i meccanismi basati sulla sofferenza altrui. E mi riferisco al meccanismo fascista e anche lo stesso meccanismo nazista. Quindi occorre, a mio parere, vedere anche questo fronte, in cui il popolare viene utilizzato, manipolato e posto in contraddizione con se stesso. Di più. Grazie, molto bene. Al primo punto. No. Secondo punto va ancora più all'aspetto. Il rapporto tra coscienza messianica e coscienza mitica è un aspetto di Armino che mi interessa molto da tempo, perché in realtà occorre stare molto attenti che non sempre questa tensione verso il futuro, se vogliamo definire idea tipicamente la Weber, il concetto di messianismo, non sempre è una proiezione reale totale verso il nuovo. In realtà molto spesso, giustamente Armido ha fatto riferimento ai movimenti popolari medioevo, i movimenti popolari medioevo molto spesso avevano idealizzato o mitizzato in senso antistorico la Chiesa primitiva, pensando di poter ricostruire la Chiesa primitiva, di un primitivismo che in realtà storicamente non è mai esistito, almeno nei termini in cui loro la pensavano, che ha costituito un elemento trainante, certamente in termini messianici, ma che in un certo senso era anche un ritorno verso il passato. Quindi c'è un'estrema ambiguità, ecco, e che vanno studiate. I messianismi vanno visti, qui mi spesso un po' forever, non soltanto nella fase carismatica, ma anche nella pratica quotidiana. E quindi anche in questo senso vediamo il ripiegamento, per esempio, a mio parere, di alcuni messianismi africani. che in fase coloniale hanno espresso una carica di rottura, ma che poi nella fase post-coloniale si sono andate pian piano spegnendo. In questo senso, quindi, vorrei fare un richiamo alle volte che il rapporto con la storia, con la ricerca storica, è fondamentale per poter inquadrare un po' queste problematiche. Grazie, e allora, il suo volto. Mi pare che l'intervento di Rizzi abbia voluto collegare, tra le altre cose naturalmente, la definizione di questa strategia di popolo con la chiusura del suo intervento, cioè sulla possibilità del ritorno alla dimensione mitica, che saprete che dal resto anche l'intervento che ha fatto l'ultimo fatto stringeva questi due termini. Allora io vorrei esporre questa prospettiva usando come materiale possibile lo schema di Rousseau, perché in fondo, anche se non bisogna ricordarlo adesso, questo schema è uno schema tutoriale. E nella prima intervento si è parlato, si è evocato l'espressione di volontà generale, in questo caso. Allora, Rousseau ha certamente uno stadio pretetico nel concetto di stato di natura. Allo stadio di ritorno allo stato di natura sarebbe forse di volontà generale. Che è uno stato tecnico, tanto è vero che è uno stato statuale, non soltanto si comunica, a qualche modo addirittura un sistema statuale, costruito e fattuito, come ritorno a questo ritmo. Cosa c'è in mezzo? In mezzo c'è la catastrofe. Catastrofe che nel linguaggio rossoiano è il sorgere della civiltà, è il sorgere delle tecniche, è la perdita del mito. Ora, è proprio questo che certamente un meccanismo laicizzato, non ritorno su questa affermazione ovvia, è un meccanismo laicizzato, discutibile. Questo modello però non mi pare che sia applicabile a un modello biblico, perché il concetto stesso di catastrofe è importantissimo certamente, ed è biblico, però non è questo il modello biblico, o meno uno dei modelli biblici. Perché il modello biblico diventa restrittivo, viene uno naturalmente. Dunque, perché? Il concetto di catastrofe è fondamentale. Se non c'è la rottura, se non c'è l'evento, se non c'è la contrapposizione, e questo tutto è anche il meccanismo del terzo mondo, nasce su questa contrapposizione, rottura, catastrofe, non nasce il meccanismo. O non nasce l'attesa. Però nel concetto di uno dei concetti, non c'è l'origine, non c'è l'origine come ritorno attraverso cui si deve fare, a cui si deve ritornare, perché diciamo che c'è il concetto stesso di catastrofe alla origine, ovvero dire, se noi poniamo l'esodo dall'Egitto come l'uomo forte di origine dell'identità del popolo e della liberazione, questo esodo dall'Egitto è un esodo che ha carattere di strappo da una realtà già perfetta, prima della quale non c'era niente. Il popolo si è formato, da certi aspetti, in Egitto, o meglio, si è formato dallo strappo di una situazione perduta, che è quella di. E quindi non c'è un ritorno precedente. Meno certamente la tradizione ebraica, che è molto onesta, non c'è un possibilità. Abramo, va bene, ma non c'è la possibilità di risalire all'alleanza nella creazione. L'alleanza della creazione, per quanto il dossier che parli, mi pare un concetto che la tradizione ebraica assai difficilmente si porta fuori. Noè, ma Noè è dopo la catastrofe. Se c'è una rottura in precedenza, perché la Messia è già una specie di messianismo, un'attesa, cioè un sentimento di Dio, proprio come il Noè, è una specie di sentimento di Dio. Questo credo, che ci porti a considerare un altro termine, a mio avviso, fondamentale, che non è stato finora, cioè, a oggi, non so ieri, nominato, che è il concetto di reddito. È il concetto di reddito. Non c'è metterismo se non c'è una teologia del reddito, se non c'è la teologia del reddito. Cioè, di un popolo che non è soltanto dotato di ambizione, e non è soltanto sofferenza, ma è punito, in qualche modo punito anche da Dio, che è in qualche modo messo sempre alla prova, che è sempre, in qualche modo sempre tenuto sulla corda e anche perde, ed è anche perdente, ma mai sopraffatto. È un concetto appunto di autoconservazione teologica del popolo, che è la precondizione della sopravvivenza messianica in cui versare, ma è la precondizione. Proprio perché c'è questa rottura, questa catastrofe, chiamo il termine catastrofe, che è vissuto in questo senso, come costitutiva del popolo, e non mito, rottura e ritorno. Grazie. Questa battuta non so se vuoi dire. No, perché riguarda una breve conclusione e dopo facciamo un quarto d'ora di Brexit. Si accende adesso l'interesse, ma l'interesse sono i problemi che si vengono messi dentro, che si sconvolgono, che fanno catastrofe. Allora, rottura. No, ma allora sì, c'è il momento. Allora volevo dire a Stefani che anche se però sto cambiando pelle, cioè questo di per sé cambia pelle. Siamo in causa allora. Sono passati 10 minuti, 4 ore. Sono passate 4 ore. Ma mi hanno invitato, eh. No, ma siamo in causa, no, ecco che. Ah no, perché io per cambiare il 4 ore della. Il cuore sempre della. Sì, è vero che dietro, storicamente, dietro l'Israele in Egitto non c'è nulla, però è anche vero che quando poi Israele ripensa a se stesso, si trova dietro qualche altra cosa. Ecco, allora, che sarà forse una. La creazione non è alleanza, ma comunque anche la creazione non è comunque un dietro cronologico, no? Ma piuttosto direi. Il vero dietro, appunto, è quello archetipico che è già la terra promessa. No, Israele dall'alleanza arriva alla terra promessa, ed è la terra promessa. Ecco, allora la mia domanda in fondo sarebbe questa: la terra promessa ha già, è chiaro, non è ancora messianismo nel senso letterale del termine, no, questo è evidente, ma non è quella, non ha già tutto il contenuto che poi nel fallimento della regalità, infedeli, inadempiente, viene ripreso e riproiettato in avanti come il primo contenuto messianico. Dico il primo, no? Quindi non poi il successivo. No? In altre parole, ecco, le profezie di Isaia, di Isaia 9, ecco, dicono davvero di più. Certo, le immagini sono più gonfiate, no? Il mondo, l'anello, ma dicono davvero di più che non la riconciliazione tra gli uomini e la riconciliazione, che una società è anche una natura buona, non mi pare. Dicono davvero di più di quanto dice la terra promessa. Ecco, a mio avviso no. Perché allora l'interpretazione del messianismo si basa su questo, l'elemento contenutistico, quindi che il contenuto utopico di tutte del messianismo originario, e che poi verrà continuamente ripreso e dislocato sulla terra, poi nel cielo, eccetera, interiorizzato, per cui si potrebbe anche forse discutere che davvero sia una dimenticanza del messianismo, o se non sia qualcosa di più forse grave, cioè è la tradizione cristiana che interiorizza i beni messianici nella grazia, nelle virtù, o gli ecclesiastici, nei sacramenti, ma con questo avendo coscienza che sta interpretando nella loro verità quelli che nell'Antico Testamento sono i beni messianici, tra virgolette, materiali. Cioè non è un fatto di latenza del messianismo, è un fatto di cambio di prospettiva che obbliga, necessita a reinterpretare in chiave, tra virgolette, spiritualista, quello che là è invece il buon ordinamento di Dio sulla vita degli uomini. Ecco, allora dico, c'è anche una certa lettura del messianismo biblico, che è appunto un vedere nel messianismo stesso, nella sua fase originaria, nella sua ispirazione originaria, la ripresa di tutta diciamo, la massa contenutistica di qualità di vita che c'è nella terra promessa. Allora abbiamo passato anche il tempo, comunque un quarto d'ora, io avevo l'intenzione di darvi mezz'ora. Menestrina, è necessario qui dare qualche avviso per il pranzo? Possiamo partire alle 12 e mezza. Come? Allora, va bene. Allora un quarto d'ora di massima o di minima, non so cosa dire. Bene.